Barnum va al passo. La domenica successiva Barnum fece il pazzo come non mai, non ne voleva sapere di fermarsi e Laura dovette aspettare il terzo giro per riuscire a salire sul calese. Poi si impennò e cercò di prendere la fuga, tirando tanto che a un certo punto Almanzo si lamentò: "Questo cavallo tira il calese col morso e con le mie braccia." "Provo un po' io", disse Laura, "così ti riposi." "D'accordo, un momento solo, ma stai attenta a non farti prendere la mano." Mollò la presa solo quando Laura ebbe afferrato saldamente le redini e lei sentì sulle braccia tutta la forza del cavallo. Lungo le corregge di cuoio venne quel fremito che conosceva. "Dai, Barnum!" lo supplicò silenziosamente. "Ti prego, non tirare così. Voglio guidarti un po' io." Barnum avvertì il cambio di conducente, allungò il collo un altro poco, mordicchiando il morso, poi rallentò. Svoltò l'angolo di Pearson e di colpo si mise al passo. Al passo. Almanzo non disse nulla. Laura trattenne il fiato. A poco, lentissimamente cominciò a mollare le redini. Barnum continuò alla stessa andatura. Quel demonio di un cavallo che cercava sempre di prendere la fuga e che nessuno aveva mai visto andare al passo quando era attaccato a un calesse, fece tutta main street un'andatura più tranquilla. Due volte portò avanti la testa, masticò sul morso e sentendolo di suo gradimento inarcò il collo e mantenne fieramente quel passo così rilassato. Almanzo sussurrò: "Tieni le redini un po' più tese, che non ti scappi all'improvviso." "No," rispose Laura, "voglio lasciargli la bocca leggera, secondo me gli piace." Per la strada tutti si fermavano a guardarli passare sbalorditi. Laura non gradiva per nulla essere al centro dell'attenzione generale, ma non doveva innervosirsi proprio ora. Era importante che restasse perfettamente tranquilla, per tenere tranquillo anche Barnum. "Vorrei che non mi guardassero tutti," bisbigliò, continuando a fissare avanti tra le orecchie del cavallo. Altrettanto a bassa voce, Almanzo le disse: "Si aspettano che pigli la fuga da un momento all'altro. Meglio non lasciarlo al passo finché si stanca. Accorcia le redini e fallo accelerare, così capirà che prende il trotto perché glielo dici tu." "Fallo tu," disse Laura. Le girava quasi la testa dall'emozione. Almanzo prese le redini e a suo comando Barnum partì al trotto. "Incredibile! Vorrei proprio sapere come hai fatto," disse. "È da quando ce l'ho che cerco di tenerlo al passo. Che cosa hai fatto?" "Niente," disse Laura. "La verità è che è un cavallo di buon carattere." Per tutto il resto del pomeriggio Barnum passò dal trotto al passo e viceversa, secondo i comandi. E Almanzo dichiarò fiducioso: "Beh, dopo questa giornata diventerà docile come un agnellino." Aveva torto. Venerdì sera Barnum rifiutò di nuovo di stare fermo e quando finalmente Laura riuscì a salire sul calesse, Almanzo le rammentò che sarebbero usciti all'intervallo. Ma benché fosse rimasto legato assai meno a lungo del venerdì precedente, Barnum era così furioso che Laura dovette farlo girare più e più volte attorno alla chiesa, sicché riuscirono ad andarsene appena prima che la lezione finisse e uscissero anche tutti gli altri. A Laura piacevano le lezioni di canto. Cominciarono con le scale per abituare la voce, poi il signor Clewett passò al primo facile esercizio del libro, dette il la con il diapason e quando, dopo ripetuti tentativi, tutti presero la nota giusta, li fece cantare in coro: "Va la nostra navicella lieta sull'onda e bella." Quando seppero cantare bene quella, passarono alla canzone successiva, la canzone dell'erba. Intorno alla porta di ogni casa, povera o ricca che sia, eccomi, eccomi, eccomi qua, sono qui a tenerti compagnia. Poi fecero una canzoncina in forma di canone. Tre ciechi topolini dietro alla moglie del fattore hanno perso la coda alle orecchie e tre ciechi topolini dietro alla moglie del fattore. I bassi inseguivano i tenori contralti, i contralti i soprani e così via, sempre in tondo finché non ne poterono più dalle risate. Che spasso! Laura riuscì a reggere più di tutti perché tre ciechi topolini la cantavano anche loro a casa quando erano piccole, gliel'aveva insegnata papà. Barnum era diventato così docile che Laura e Almanzo ormai potevano fermarsi fino alla fine della lezione. Durante l'intervallo lui e gli altri giovanotti tiravano fuori di tasca sacchettini di caramelle colorate e le offrivano alle ragazze. C'erano mentine a righe bianche e rosa, caramelle al limone, alla menta, al mentastro e tornando a casa Laura cantava: "Che spasso i giochi proibiti che da bambini sono preferiti. Far l'altalena sul cancello, rubare le mele e il caramello. Ma quando le regole dovrai rispettare, il meglio è passare la sera a cantare." "Ecco perché pensavo che ti sarebbe piaciuta la scuola di canto," disse Almanzo. "Canti sempre?" Ogni sera c'era una canzone nuova da imparare. L'ultima sera finirono il libro con l'inno Cantano i cieli la gloria del Signore a pagina 144. Barnum non si impennava più e non schizzava più via a rotta di collo. Partiva un trotto veloce e regolare, con un piccolo scatto. L'aria aveva il respiro dell'inverno in arrivo. Nel cielo limpido e freddo le stelle erano luminose, grandi e vicine. Quella sera, tornando a casa, Laura riprese l'inno che avevano cantato in chiesa. Cantano i cieli la gloria del Signore e l'opera sua mostra il firmamento. Di giorno in giorno risuona la sua voce. Di notte in notte riluce la sapienza, ma non c'è lingua né parola dove non si ascolta la sua voce. Non si sentiva altro rumore che il picchiare cadenzato degli zoccoli di Barnum sulla carareccia della prateria. Canta la canzone delle stelle, chiese al manso. E Laura cominciò a mezza voce, dolcemente. Tutta è stellata la volta del cielo, lieta è la notte al nostro cuore. Solo si ode cantar l'usignolo alla rosa il suo canto d'amore. In questa notte silente d'estate, orché la brezza comincia a giocare, dal lontano palpitar delle stelle tu ed io ci sentiamo chiamare. Scendiamo insieme, là dove l'onda mite si frange sulla riva del mare, che per noi è stellata la notte. Perché la strada possiamo trovare. Nel vasto silenzio della prateria, Barnum piegò da solo verso nord per tornare a casa. Allora Laura disse: Ho cantato per te, ora un soldino per i tuoi pensieri. Mi chiedevo, disse al manso. Tacque e prendendole la mano che risaltava bianca nel vago lucore delle stelle, la chiuse con dolcezza tra le sue dita abbronzate. Non l'aveva mai fatto prima. Com'è piccola la tua mano, disse. Tacque di nuovo e poi d'un fiato mi chiedevo se accetteresti un anello di fidanzamento. Beh, dipende da chi me lo dà, disse Laura. Se fossi io? Beh, allora dipenderebbe dall'anello, rispose Laura tirando via la mano. La domenica successiva il manso arrivò più tardi del solito. Scusa se ho fatto tardi, disse quando Laura salì e si avviarono. Possiamo fare un giro più corto, disse Laura. Ma avevamo stabilito di andare a Lake Harry. È l'ultima occasione che abbiamo di trovare l'uva selvatica ora che ha assaggiato la brina, disse al manso. Era una giornata calda per la stagione. Di qua e di là della strada, tra i laghi, grappoli di uva selvatica matura pendevano dai tralci aggrappati agli alberi. Al manso mise il cavallo al passo e ne raccolsero in quantità, direttamente dal calesse. Poi si fermarono a guardare il gioco del sole sull'incresparsi dell'acqua. Piluccando la dolcezza asprigna degli acini ormai quasi vizi. Mentre tornavano, il sole tramontò in un cielo di fiamma. Sulla prateria scese il crepuscolo e la brezza della sera venne a frusciare contro le ruote del calesse. Allora il manso, tenendo le redini con la sinistra, le prese la mano con la destra. Laura sentì qualcosa di fresco scivolarle sull'indice. Hai detto che dipende dall'anello, questo ti piace? Laura alzò la mano. L'oro dell'anello e del castone luceva nel fievole chiarore della luna e le tre piccole gemme incastonate nel filetto d'oro scintillavano. È un granato con due perle ai lati, disse al manso. È un bellissimo anello, disse Laura. Credo che lo terrai volentieri. Allora lascialo dov'è, è per te. E l'estate prossima costruirò una casetta nel terreno a bosco. Sarà piccola. Spero non ti importi. Oh, ho sempre abitato in case piccole, disse Laura, mi piacciono. Erano quasi arrivati a casa. C'era il lume acceso e papà suonava il violino. Laura riconobbe la melodia. Era una canzone che cantava spesso a mamma. Con la musica giunse la voce. Nella terra dei sogni, lontana, ho costruito un castello per te. E là dove amore regna sovrano, laggiù voglio portarti con me. Oh, dolci saranno i giorni, grande la nostra serenità, che là. L'ora scocca solo coi baci e ogni dovere è felicità. Barnum se ne stette ad aspettare tranquillo che Laura e Almanzo, accanto al calesse, attendessero la fine della canzone. Allora Laura alzò il viso al chiaro di luna e disse: Puoi darmi un bacio prima di andare? Dopo quel primo bacio entrò in casa e Almanzo ripartì. Papà posò il violino, guardò la mano dove l'anello scintillava alla luce della lampada. Beh, vedo che è deciso, disse. Almanzo è venuto a parlarmi ieri e ho detto che a me sta bene. Solo che tu sia sicura, Laura, disse mamma con dolcezza, A volte ho l'impressione che ti importi più dei cavalli che del loro padrone. Beh, non potrebbero esserci gli uni senza l'altro, disse Laura un po' emozionata. Allora mamma sorrise. Papà si schiarì la voce rudemente e Laura seppe che avevano capito quello che era troppo imbarazzata per dire. Almanzo parte. Perfino a casa Laura aveva la sensazione che il suo anello desse nell'occhio. Le pareva di sentirne costantemente la superficie liscia a contatto del dito e che il granato e le perle lampeggiassero ogni raggio di luce. Andando a scuola l'indomani mattina fu più volte lì lì per toglierselo e annodarlo nel fazzoletto, ma ora era fidanzata e non era cosa che si potesse tenere segreta per sempre. Quel giorno non le importò arrivare a scuola all'ultimo minuto. Ebbe giusto il tempo di sedersi al suo posto accanto a Aida che il signor Owen dette inizio alla lezione e lei aprì subito il libro in modo da nascondere la mano sinistra. Stava per cominciare a studiare quando uno scintillio le catturò l'occhio. La mano di Aida era posata sul banco in modo che a Laura non potesse passare inosservato il cerchio d'oro che le serrava l'indice. Laura spostò gli occhi dall'anello al viso ridente e imbarazzato di Aida e, contravvenendo a una delle regole della scuola, le sussurrò: Elmer. Arrossendo, Aida annuì. Allora, sotto il piano del banco, Laura le mostrò il suo anello. Mary Power, Florence e Minnie non aspettavano che l'intervallo per venire tutte lì ad ammirare gli anelli. Un po' mi dispiace, però, disse Mary Power, perché ora lascerete la scuola, immagino. Io no, disse Aida, ci verrò comunque per tutto l'inverno. Anch'io, disse Laura, voglio prendere un'altra abilitazione in primavera. Insegnerai di nuovo l'estate prossima? Chiese Florence. Se mi danno una scuola, rispose Laura. A me daranno quella del nostro distretto, sempre che prenda l'abilitazione, disse Florence, ma ho un po' paura degli esami. Figurati, passerai di sicuro, la rassicurò Laura. Non sono niente di speciale, basta non lasciarsi prendere dal panico, se no si rischia di dimenticare anche quello che si sa. Io invece non sono fidanzata e non voglio neppure fare la maestra, disse Mary Power. E tu, Aida, insegnerai anche tu per un po'? Aida si mise a ridere. No, di certo. Non mi è mai passato per la testa di fare la maestra. Preferisco occuparmi della casa. Perché credete che abbia quest'anello al dito, se no? Risero tutte con lei e Minnie chiese: E tu allora, Laura, non vuoi occuparti di una casa? Certo, disse Laura, solo che Almanzo prima deve costruirla. A quel punto il campanello nuovo suonò nella sua nicchia e l'intervallo finì. Poiché la scuola di canto era finita, Laura non si aspettava di vedere Almanzo fino alla domenica successiva. Si stupì quindi quando il mercoledì sera papà le chiese se si erano visti. L'ho incontrato dal fabbro, spiegò papà. Ha detto che sperava di passare a fine giornata e di dirti che se no è perché non ce l'ha fatta. Da quanto ho capito, lui e Royal partono per il Minnesota domenica. C'è stato qualche imprevisto e Royal deve anticipare la partenza. Laura ebbe un attimo di sgomento. Sapeva che Almanzo e suo fratello intendevano trascorrere l'inverno dai genitori in Minnesota, ma avrebbero dovuto partire più avanti. La turbava che il ritmo delle giornate dovesse mutare così all'improvviso. Non ci sarebbero più state gite in calesse la domenica? Forse è meglio così, disse. Arriveranno in Minnesota prima che comincino le nevicate invernali. Eh sì, è probabile che abbiano tempo buono durante il viaggio, disse papà. Gli ho proposto di tenere Lady. Lascerà qui il calesse, dice che puoi usarlo quando vuoi, Laura. Oh, Laura, mi porterai a fare un giro? Esclamò Carrie. E Grace gridò: Anch'io, Laura, anch'io! Laura promise che le avrebbe portate sul calesse, ma i giorni successivi le parvero stranamente vuoti. Non si era mai resa conto di come il pensiero della gita domenicale in calesse le riempisse le giornate. Domenica mattina, di buon'ora, Almanzo e suo fratello Royal passarono di lì. Royal aveva il carro e i cavalli che usava per il suo lavoro di commerciante. Almanzo aveva attaccato Lady al suo bel calesse lucente. Papà uscì dalla stalla per salutarli e Almanzo portò il calesse sotto la tettoia coperta di fieno. Staccò Lady e la condusse nella stalla. Poi, lasciando papà e Royal a chiacchierare, andò ad affacciarsi alla porta della cucina. Disse a mamma che non potevano trattenersi, ma chiese di vedere Laura un momento. Mamma lo mandò di là. Laura stava sprimacciando i cuscini del sedile sotto la finestra. Come si voltò, l'anello lampeggiò al sole del mattino. Almanzo sorrise. Come sta bene l'anello su quella mano? Laura la alzò ai raggi del sole. L'oro scintillava, il granato luceva di un caldo color porpora e le due perle brillavano lustre. È bellissimo questo anello, disse. Non quanto la mano, rispose Almanzo. Immagino che tuo padre ti abbia riferito che Royal e io dobbiamo partire prima del previsto. Royal vuole passare dall'Iowa, stiamo partendo ora. Ho portato Lady e il calesse perché tu possa usarli quando vuoi. E Prince? Dov'è? Chiese Laura. Uno dei vicini si è offerto di tenerlo insieme al puledro di Lady e Cap ha preso Barnum e Skip. In primavera mi serviranno tutti e quattro. Da fuori giunse un fischio. Beh, è Royal che mi chiama. Dammi un bacio che devo andare. Si dettero un rapido bacio, poi Laura lo accompagnò alla porta e li guardò partire col carro di Royal. E di colpo si sentì sola e abbandonata. Macquarie a suo fianco chiese: Sarai triste ora? Con una faccia così seria che Laura sorrise. No, non sarò triste, decise. Dopo pranzo attacchiamo Lady e andiamo a fare un giro in calesse. Papà entrò avvicinandosi alla stufa. Si comincia ad apprezzare il calore del fuoco, disse. Caroline, che ne diresti di restare qui tutto l'inverno invece di trasferirci in paese? Penso di poter affittare il magazzino, così potrò isolare le pareti di questa casa con la carta catramata e rivestirle per bene dall'esterno. Magari anche dare la tinta. Beh, sarebbe un bel vantaggio, disse mamma subito. E poi c'è il fatto che ormai abbiamo tante bestie, continuò papà. Portare in paese mangime e fieno per tutte è un grosso lavoro. Se invece sistemo le pareti di casa e tappezziamo le stanze, staremo benissimo anche qui. Possiamo montare la stufa a carbone nel soggiorno e fare una buona provvista di combustibile. Abbiamo la cantina piena di zucche e di prodotti dell'orto. E se anche l'inverno fosse così brutto che io non potrò andare spesso in paese, non dovremmo comunque temere la fame o il freddo. Questo è vero, disse mamma. Però le ragazze devono andare a scuola, Charles. Ed è un po' troppo lontano perché ci vadano a piedi tutto l'inverno. Le porterò io con la slitta, disse papà. È solo un miglio e con la slitta senza carico si va e si torna in un momento. D'accordo allora, disse mamma. Se affitti il magazzino in paese e vuoi restare qui, a me sta bene. Sono contenta di non dover fare il trasloco. Prima che nevicasse, riuscirono a fare tutto quello che era necessario per rendere la casa comoda e accogliente per l'inverno. Con il nuovo rivestimento esterno aveva proprio l'aspetto di una casa vera e propria e non ricordava più neppure alla lontana le baracche dei coloni. All'interno, fogli di spessa carta grigia da edilizia coprivano le tavole delle pareti. Nel tempo il legno si era scurito tanto che ora, così tappezzate, le stanze erano più luminose di prima. Le tendine di mussola inamidate aggiungevano un tocco di freschezza. Quando cominciò a nevicare, papà montò il cassone del carro sui pattini da slitta e lo riempì a mezzo di fieno. Nei giorni di scuola, Laura e Carrie si sedevano con Grace in mezzo sulla coperta stesa sopra il fieno, si avvolgevano ben bene in altre coperte e papà le portava a scuola e la sera andava a riprenderle. Ogni pomeriggio, prima di passare a scuola, si fermava un momento all'ufficio postale a prendere la posta. Una o due volte alla settimana c'era una lettera di Almanzo per Laura. Era arrivato a casa dei genitori in Minnesota e sarebbe tornato solo a primavera.